voi non applaudite? È afflitto poveretto, perché il padron lo scacciano al castello. Ah, in un giorno sì bello. In un giorno di notte. Quando ognuno va a mira. Perdono, mio signor. Non lo meritate. Egli ancora, fanciullo. Mendi quel che tu credi. E ver mancai, ma dal mio labbro al fine. Ben, io vi perdono. Anzi, farò di più. Vacante un posto d'ufficiale nel reggimento mio. Io scelgo voi. Partite tosto. Addio. A fin domani sonno. Parta tosto. A ubbidirvi, signor. Son già risposto. Via per ultima volta la Susanna. Abbracciate. Inaspettato il colpo. Ehi, capitano. Ave pure la mano. Io vo' parlarti prima che tu parta. Addio, picciolo cherubino, come cambia in un punto il tuo destino.